Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornati al nostro appuntamento settimanale con la cultura internazionale. In un mondo che viaggia a velocità vertiginosa, ci sono però alcuni punti fermi, alcune cose che non passano mai di moda. Per esempio, una è la passione del pubblico per i thriller, per i film e i libri dell'orrore. E un'altra è il matrimonio monogamico. Mentre le barzellette degli anni 50 fanno ridere soltanto quelli che erano giovani a quell'epoca, i classici del giallo continuano ad appassionarci anche mezzo secolo dopo. E il matrimonio? Beh, a dispetto del divorzio, della liberazione sessuale, degli scandali, delle escort, continua a essere un'istituzione di successo e dura da almeno 10.000 anni. Delle ragioni di questa longevità e anche del fatto che alcuni thriller siano intramontabili parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo cosa prevede il nostro menù. America. Psycho è un film che sfida il tempo. Cosa rende le pellicole di Hitchcock capolavori intramontabili? Inghilterra. 10 fantaprevisioni sul futuro dello sport. Francia. Una mostra rende omaggio a Isadora Duncan, la ballerina che scardinò i canoni della danza classica. Inghilterra. Il matrimonio monogamico. Una formula di successo fin dalla preistoria. Gli scienziati hanno trovato la spiegazione. Germania. Le donne non hanno bisogno di controfigure. Da quest'anno la rivista femminile Brigitte rinuncia a pubblicare foto di modelle. Spagna. Come se la cavano gli uomini nelle faccende domestiche? Ancora Maluccio conferma una ricerca. La madre di tutti i film dell'orrore, The Mother of All Horror Films, è il titolo di un articolo sul settimanale americano Newsweek firmato da Malcolm Jones ed è dedicato ad una ricorrenza. 50 anni fa, in questi giorni, Alfred Hitchcock, il maestro del brivido, girava quello che molti considerano il suo capolavoro, il film Psycho. Malcolm Jones si domanda le ragioni di questa dello straordinario successo e della straordinaria longevità di questo film che ancora a distanza di mezzo secolo continua ad appassionare le platee. Scrive tra l'altro Jones, mentre per esempio i film umoristici o comici hanno la scadenza come il latte e quindi perdono di attualità e di fascino, invece i film del terrore non vanno mai fuori moda. E in particolare questo che Psycho, che ancora adesso, insomma, quando ogni volta che lo vediamo proviamo gli stessi sentimenti di paura, di tensione, di orrore che abbiamo provato la prima volta che l'abbiamo visto. E questo malgrado, dopo tutto, questo film abbia delle caratteristiche che abbastanza singolari, che il protagonista è un serial killer e che invece la protagonista femminile, forse il personaggio più carino, una donna affascinante come Janet Leigh, esce di scena, viene uccisa barbaramente a un terzo del film e quindi a un certo punto lo spettatore dovrebbe perdere interesse al resto, invece rimane lì inchiodato. Pare che Hitchcock, così ci racconta Jones, proprio per la proiezione, la prima di questo film, abbia persuaso i proprietari dei cinema di chiudere le porte una volta che il film era iniziato, perché questo per evitare che ci fosse un andarivieni, insomma, di spettatori nella sala, ma non ci fu bisogno perché tutti rimasero seduti al loro posto, contrariamente alle abitudini del pubblico americano dell'epoca. E racconta altre cose Jones, altre curiosità su questo film, per esempio che il serial serial killer a cui si era ispirato Hitchcock era un caso giudiziario di circa un anno prima e che il costo della produzione fu di $800,000, fu girato, come sappiamo, in bianco e nero. Ecco, ma intanto dovremmo avere qui Dario Argento, grazie di essere con noi. Grazie. Maestro italiano del giallo e dell'horror, nei suoi film ha adottato un linguaggio e una tecnica che spesso possiamo dire che erano ispirati anche a Hitchcock. Ricordiamo, non so, film come L'uccello dalle piume di cristallo, Quattro mosche di luto grigio, Profondo rosso, Suspiria, che sono anche questi, insomma, dei film intramontabili nella storia del cinema. Ecco, cosa ha rappresentato per lei un film come Psycho e in generale, insomma, il cinema di Hitchcock? Cinema di Hitchcock penso che abbia influenzato non soltanto coloro che facevano film thriller o horror, ha influenzato tutto il cinema, perché il suo modo di raccontare, il suo modo di realizzare le inquadrature, il suo modo di rappresentare i personaggi, le loro psicologie, penso che abbia influenzato tutto il cinema, anche il cinema con le commedie si ispirano a Hitchcock. Certo. Invece Psycho, ad esempio, era un film che all'inizio non veniva molto considerato, perché doveva far parte della serie che Hitchcock fece per la televisione. Certo. Alfred Hitchcock presenta. Presenta, sì. Sì, quella con quella musichetta all'inizio, no? doveva far parte di questa cosa. Poi improvvisamente lui lo trovò più interessante, cominciò. Però volle fare un film a basso costo, e poi il segreto del perché lui prese Jared Lee per fare questo ruolo che muore dopo un terzo è perché nessuno spettatore avrebbe immaginato che Jared Lee sarebbe morta veramente. Sì, quindi questo era anche un modo per sorprendere gli spettatori. Ecco, ma perché il genere horror, il thriller, insomma, non invecchia mai? Perché le commedie sono legate a fatti anche storici, a fatti contingenti, a fatti di cronaca, quello che pensano le persone, quello che è scritto sui giornali, mentre invece i thriller, gli horror sono astratti praticamente, raccontano mutamenti dell'animo così profondi, così sconvolgenti, che non hanno, in realtà non hanno tempo, non hanno stagioni. Certo, e quindi c'è una, così, in qualche maniera, una forma di sublimazione che noi a noi piace, insomma, vedere poi questi drammi, queste tragedie rappresentate sullo schermo, benché, insomma, basta aprire la televisione tutte le sere di sangue e di tragedie ne vediamo già abbastanza, insomma, no? Compresi i casi di cronaca, i fatti di sangue. Sì, ma sono casi reali, invece quelli che si raccontano nel cinema sono in realtà, ed è quello che interessa. Non interessa allo spettatore il racconto di cronaca. Io non mi ispiro mai alla cronaca, ai giornali, a quello che si legge o quello che accade. Cerco di ispirarmi a me stesso, ai miei sentimenti, ai miei pensieri, a certi sogni che facevo da bambino. E così fanno anche gli altri autori di film horror o film thriller. Ecco, c'è un suo film che tutti quanti aspettano con ansia, che è intitolato Giallo e che è proprio la storia di un serial killer, è vero, no? Che è stato girato a Torino, eccetera. Quando lo vedremo sui nostri schermi? Ma quello lì non lo so, perché il film è stato prodotto da una società americana che precedentemente sono spariti, non si sa che cosa è successo al film. Tra l'altro è anche un film importante che vedeva come protagonista un premio Oscar come Adrien Brody, con altri attori importanti. Emmanuel Seigné, no? Sì, Emmanuel Seigné. Elsa Eppure improvvisamente non si sa per quale ragione, misteriosissima, ancora non è uscito da nessuna parte del mondo. È un film fermo, lì, immobile. Questo, diciamo, ci auguriamo che presto venga disincagliato, perché siamo molto curiosi, insomma. Anche per me, anche per Adrien Brody, che l'ho sentito recentemente, che era così avvilito per questa storia, era veramente, neanche lui riusciva a spiegarsi che cosa era accaduto. Senta, invece, per quanto riguarda, lei diceva non mi ispirerei mai, non mi sono mai ispirato a un caso di cronaca, ecco, ma nemmeno casi che hanno appassionato le platee come, non so, il caso di Perugia oppure quello di Garlasco, non le suscitano nessun sentimento. Parlarne, raccontare così, però non per farne un film, non mi interessa affatto. Quindi sono, casomai si fanno per la televisione, sono casi che sono giusti per la televisione, per il mezzo televisivo che è un po' cronaca, un po' fiction, insomma. Ecco, certo, ma non si prestano, insomma, ad una versione più romanzata? No, non credo che... No, assolutamente no. Bene, noi salutiamo Dario Argento, tantissimi auguri per la sua attività e per il suo film e a presto. Grazie. Grazie. Come cambierà il mondo dello sport nei prossimi 10 anni? È la domanda che si è posto il quotidiano inglese Guardian, che ha affidato una serie, 10 profezie, ai suoi giornalisti specializzati nelle varie specialità dello sport. E questi scenari futuribili ci riservano alcune sorprese, per esempio che probabilmente i record di nuoto che sono stati conquistati l'anno passato con i costumi high tech non verranno più uguagliati nei prossimi 10 anni, che gli allenatori delle squadre probabilmente sono delle figure destinate a scomparire, che nei prossimi 10 anni probabilmente vedremo le squadre autogestirsi e quindi Mourinho forse non ha un grande futuro davanti a sé. Ma soprattutto, e questa è la cosa più curiosa, che il calcio non cambierà dal punto di vista tecnologico, mentre altri sport verranno probabilmente dominati da robot onniscienti, il football continuerà ad avere un signore vestito di nero di mezza età che sbuffa e corre avanti e indietro per inseguire 22 persone che danno un calcio a un pallone. Isadora Duncan è un personaggio della storia della danza, un'icona del Novecento, alla quale Parigi dedica una mostra importante che si è aperta nei giorni scorsi e durerà fino al 14 marzo al Musée Bourdelle. Antoine Bourdelle era uno scultore che dedicò appunto alla grande danzatrice californiana una serie di opere, sia disegni che sculture bassorilievi, che verranno esposti in questa mostra. E si parla appunto di questo personaggio che si ispirava alla Grecia antica, che danzava a piedi nudi e senza reggiseno sotto le sue vesti ondeggianti. E attraverso questa mostra riscopriremo un mondo scomparso dove il pubblico si scandalizzava, ma si estasiava anche davanti a una danzatrice senza reggiseno. La finestra sul cortile. Perché il matrimonio monogamico è un'istituzione che, nonostante le crisi, nonostante il divorzio, la liberazione sessuale e i profeti di sventura che di tanto in tanto ne annunciano la fine, nonostante tutto continua nelle società occidentali ad essere un'istituzione centrale e molto importante, molto rispettata? E la risposta, o quantomeno un tentativo di spiegazione, viene da una ricerca compiuta da due studiosi italiani, Laura Fortunato e Marco Archetti, rispettivamente del University College di Londra e della Università di Harvard. Questi due antropologi hanno pubblicato il loro studio sul Journal of Evolution Biology e cercano appunto di dare una spiegazione di tipo evolutivo, evoluzionistico, alla ragione della solidità, insomma, di questa istituzione, che secondo i due studiosi risalirebbe al periodo, insomma, circa 10.000 anni fa, quando i nostri progenitori divennero stanziali e incominciarono a coltivare la terra. Sostengono Laura Fortunato e Marco Archetti in questa loro ricerca. C'è un interesse a sposarsi e ad essere in qualche modo stabili e fedeli, a formare una coppia stabile e duratura, quando la terra è scarsa e la coltivazione è intensiva, perché i maschi rischiano di diluire e quindi di svalutare proprio il valore della loro proprietà, dividendolo tra troppi eredi, mentre invece il fatto di avere soltanto dei figli geneticamente sicuri, una discendenza insomma da una sola compagna, era una garanzia insomma di continuità e di solidità. E questo insomma è la tesi di questi due studiosi, una tesi che però appunto da altri viene messa in discussione. A questo proposito abbiamo interpellato un genetista di fama, che è anche uno scrittore, Guido Barbujani, docente a Ferrara, lo salutiamo. Ecco, Guido Barbujani, lei ha letto almeno il sunto che è stato pubblicato dalla rivista New Scientist, ma la convince questa spiegazione? Diciamo questo, è un lavoro teorico, quindi è un lavoro nel quale si fanno dei calcoli sulla base di assunzioni anche molto complicate, e si usa una cosiddetta teoria dei giochi, che è una teoria che consente di prevedere quale sia la strategia migliore da seguire quando si gioca a poker o a dadi o qualcosa del genere. Ma sono studi questi, ripeto, altamente teorici, che poi dovrebbero essere verificati dati alla mano, e non sempre è possibile farlo. Quindi questo è un primo limite, non del lavoro della Fortunato e di Archetti, ma di tutti i lavori di questo tipo. E l'altra cosa che insomma colpisce un poco è che l'evoluzione è un gioco in cui vince chi lascia più figli, no? Questo è il darwinismo classico: chi lascia più figli fa in modo che le proprie caratteristiche genetiche si diffondano sul territorio, mentre chi lascia meno figli o chi non ne lascia affatto invece non trasmette la sua eredità genetica. Qui l'idea sarebbe che si trasmette l'eredità genetica di un certo comportamento, cioè chi è geneticamente monogamo, chi è geneticamente poligamo, e nel gioco Vince il monogamo. Sembra una risposta un po' strana per un paio di motivi. Ecco, il primo motivo è che appunto, se nell'evoluzione vince chi lascia più figli, allora la strategia di lasciare pochi figli a cui trasmettere in eredità il terreno, perché di questo si tratta, no? Sì. Le culture dei contadini che trasmettono ai figli il terreno, va un po' controcorrente. I calcoli che gli autori hanno fatto sono sensati, ma hanno fatto un sacco di assunzioni secondarie. Parlano di femmine astute, parlano di maschi ambigui, discutono su come vengono distribuite le risorse fra i figli, insomma fanno tanti discorsi che andrebbero verificati sperimentalmente. L'altra cosa è che l'ortodossia in questo campo dice che invece maschi e femmine dovrebbero avere delle strategie riproduttive diverse. Cioè? E cioè il discorso è questo: un maschio può in teoria mettere incinte tante femmine quanto vuole, e più femmine un maschio mette incinta, maggiore il numero di discendenti che questo maschio può lasciare. Quindi la strategia dei maschi, quella che paga di più se proprio siamo congenitamente monogami o poligami, è quella dei poligami, perché i poligami possono avere più figli dei monogami. Speriamo che non ci sentano le femministe, perché insomma stiamo facendo un discorso veramente che sembra quel luogo comune, no? Per cui si dice: ma l'uomo è cacciatore, insomma la donna è preda, no? Sì, beh, questo è basato però su dei calcoli, e io glielo sto riassumendo in poche parole, però è basato su dei calcoli abbastanza semplici di successo riproduttivo. maschile. Per le femmine il discorso è contrario, perché una donna può essere incinta soltanto una volta, cioè in ogni momento può essere incinta, sì, soltanto, beh, ovviamente, il marito, sì, certo, per cui ha tutto l'interesse ad avere un partner stabile che le permetta di avere una maggiore probabilità di portare fino all'adolescenza questo figlio che poi si riprodurrà. E quindi l'ortodossia in questo campo dice che nei maschi è stato favorito un atteggiamento poligamo, nelle femmine monogamo. Se poi vuole le dico anche quello che penso io. Eh sì, siamo tutti curiosi di sapere. No, io anch'io penso che questi ragionamenti pecchino di un errore di cui pecca una parte della scienza, cioè di un eccessivo determinismo. Sì. Io credo che noi siamo molto meno determinati dai nostri geni di quanto non crediamo di esserlo. Io credo che esista qualcosa che si può chiamare libero arbitrio, o si può chiamare formazione culturale, condizionamento sociale, e che in questi campi, nel campo della scelta sessuale, ma anche nel campo di quella che chiamiamo l'intelligenza e le capacità cognitive, fattori non genetici siano molto molto importanti. Quindi fattori culturali, fattori religiosi, fattori ambientali. Ma sì, ma sì, ma sì. Ecco, però appunto, se posso permettermi un'obiezione, certamente la spiegazione che hanno trovato Laura Fortunato e Marco Archetti ci permetterebbe forse di capire perché nel mondo, per esempio, musulmano, invece la poligamia sia abbastanza diffusa, perché in effetti nei paesi arabi erano più popolazioni nomadi che stanziali legate alla terra, e quindi forse questo aiuterebbe a capire, a spiegare questo fenomeno. Sì, guardi, è possibile questo, ma ci sono anche dei dati che vanno in senso opposto. Se studiamo il DNA, un'osservazione che è stata fatta da molti ricercatori, compresi noi, è che quando andiamo a studiare il DNA che viene trasmesso dalle donne, che è il DNA mitocondriale, una piccola parte, che viene trasmesso solo di madre in figli, è come se studiassimo una grande metropoli. Ci sono tutte le varianti intermedie. Se andiamo a studiare il DNA trasmesso solo dai padri, sul cromosoma Y, invece è come andare a campionare tanti villaggi. Cioè ci sono dei gruppi di DNA molto simili tra di loro e sono separati da delle grandi distanze. Allora, se prendiamo alla lettera la metafora che ho appena utilizzato, verrebbe da pensare che i maschi si siano evoluti proprio come gli abitanti di piccoli villaggi e le femmine invece fossero più promiscue e venissero scambiate tra un villaggio e l'altro. Questo è esattamente quello che succede nei leoni, per esempio, in cui ci sono piccoli villaggi, piccoli gruppi di individui, il maschio dominante, che sono poligami e fecondano un vasto numero di femmine. Certo. Noi, dal punto di vista genetico, siamo molto simili ai leoni. Allora, è andata proprio così, può darsi di no, insomma io non so quello che è successo negli ultimi 100.000 anni, ma noi possiamo spiegare una caratteristica del nostro DNA pensando che l'umanità si sia evoluta fino a non molti anni fa in una situazione di essenziale poligamia in cui il maschio dominante secondava tutte le femmine e la maggior parte degli altri maschi non lasciava figli. Ecco, dopodiché poi insomma per fortuna insomma c'è stata una maggiore parità tra i sessi, ecco, dice. Sì, voglio dire, non dico che questa è la realtà, però questo è un pezzo, certo, della realtà che, su cui vale la pena di ragionare. Secondo me il discorso è molto complicato, il lavoro di questi due antropologi può aiutare a capire qualcosa. Bene, noi ringraziamo il professor Barbujani, auguri per il suo lavoro e a presto. Arrivederci. E per restare nel tema della parità tra i sessi, il giornale spagnolo ABC riporta una ricerca della rivista Panorama Social sul lavoro domestico, da cui emerge che le donne spagnole stanno diventando sempre più competitive sul mercato del lavoro rispetto ai maschi, ma i maschi invece continuano a essere poco collaborativi nel lavoro domestico, si prestano semmai ad andare a fare la spesa al supermercato, ma poco ad aiutare in cucina o a fare le pulizie di casa. E un altro dato che emerge da questa ricerca è che c'è un ristagno della natalità in Spagna, cosa che già si sapeva, e che l'aumento della natalità è tra il 2002 e il 2006 è quasi del tutto, almeno per il 58%, è dovuto agli immigrati. Purtroppo sappiamo che i maschi immigrati, specialmente se di religione musulmana, sono forse ancora meno collaborativi di quelli spagnoli. E restiamo in tema di diritti della donna e andiamo in Germania, dove la più celebre rivista femminile tedesca ha deciso di eliminare totalmente dalle proprie pagine foto di modelle dai corpi incredibili e spesso anche ritoccati al computer. La rivista tedesca si chiama Brigitte e dal primo numero dell'anno chi acquista questa pubblicazione troverà solo fotografie di donne normali, bellezze naturali, magari con qualche chilo di troppo, ma certo più simili alle acquirenti della rivista rispetto alle irraggiungibili cavalcatrici di passerelle. L'iniziativa è piaciuta a molte lettrici, ma sul blog della rivista c'è anche chi grida alla discriminazione di un'intera categoria professionale. E tra le modelle serpeggia un timore. E se la scelta di Brigitte facesse tendenza? E per questa puntata è tutto. Si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima alle 9 del mattino, perché dalla prossima puntata la finestra sul cortile cambia orario, non più al sabato, ma alla domenica mattina alle 9. Grazie a tutti, a risentirci.